Cassia. Allora, eccoci tornati in diretta, al telefono il nostro compagno che ci illustrerà soprattutto come poi diciamo si è svolto nel proseguo della vicenda, visto che la nostra corrispondenza ultima è stata intorno alle 10, una precedente la potete ascoltare sul sito della radio. Dopodiché, insomma, le proteste ieri a Albano sono andate avanti, per cui rispetto a queste soprattutto facci un quadro, e comunque da parte nostra comunque ci sentiamo, insomma, in un modo o nell'altro di ringraziare, no, la popolazione di Albano, perché soprattutto per chi è stato impossibilitato a raggiungere il paese dei Castelli Romani, certamente è stato importante. Immagino che molti abbiano comunque in un modo o nell'altro, no, salutato con positivamente quanto stesse avvenendo ad Albano, perché era proprio il caso di non far passare in silenzio questa cerimonia, no? Pronto? Pronto. Ah, ok, no, sento un po' lontano la voce. Proviamo a vedere se riusciamo a risolvere il problema. Mi hai sentito fino adesso? Sì, no, ti ho sentito e come dicevi, sì, l'ultima corrispondenza è stata verso le 10 di sera e poi l'iniziativa è andata avanti fino all'una, quando il feretro è stato portato via, a quanto pare, a Pratica di Mare e insomma è stato caricato il resto del presidio, che si è sciolto dopo la carica all'una di notte, e in questa carica almeno registriamo almeno 6 feriti, però nessun fermo. E c'è stata un'ultima carica in piena notte? C'è stata l'unica carica, perché nel resto della giornata in realtà gli episodi sono stati notevolmente differenti. C'è stata l'unica carica, che è durata per circa 300 metri, e c'è stata l'una di notte, quando il feretro è uscito dal comprensorio dei frati della confraternita, e in quel momento, insomma, gli animi si sono accesi un po' di più e le forze dell'ordine hanno attaccato il presidio, che è indreteggiato per 300 metri e dopo una mezz'ora si è sciolto. Questo qui verso l'una di notte. E abbiamo appunto registrato almeno 6 feriti, però nessun fermo. E durante il pomeriggio, non l'abbiamo raccontato forse ieri, ma insomma l'iniziativa è nata spontaneamente attraverso il tam-tam, dei messaggini, delle mail, dei social network. Verso l'ora di pranzo è circolata la notizia sui maggiori organi di informazioni che la salma sarebbe arrivata ad Albano Laziale per la cerimonia, la tumulazione e anche gli onori dell'estrema destra romana, e proprio da quel momento è partito questo tam-tam, che verso le 5 di pomeriggio, prima che arrivasse il corteo funebre con camionette di celere a seguito, si è posizionata nei pressi del cancello principale di questo comprensorio religioso, tra mille virgolette religioso. E il feretro è riuscito a entrare dentro qualche fascista già aspettava, insomma, il corteo funebre, però nelle ore seguenti, insomma verso le 6, quando un po' tutti hanno cominciato a staccare da lavoro, il presidio si è notevolmente ingrossato e per l'ora di cena, insomma, arrivavamo a essere almeno 500 persone. E durante il pomeriggio un gruppo di fascisti provenienti da zone che, insomma, non sappiamo definire, ha fatto delle provocazioni a distanza, ma parecchia distanza, provocando. Queste provocazioni non hanno avuto, non hanno sortito nessun effetto. Poi dopo cena, verso le 9, invece c'è stato un tentativo vero e proprio di aggressione al presidio. Un gruppetto, pensiamo di una ventina, ha girato l'isolato ed è sbucato fuori da una stradina che dava nei pressi del presidio. C'è stato un fronteggiamento, insomma c'è stata una risposta abbastanza determinata che ha costretto questo gruppetto a tornare indietro, che per poi probabilmente sciogliersi in maniera così, insomma, così defilata. Quindi c'è stato un tentativo d'aggressione verso le 9 di sera, respinto abbastanza efficacemente. L'iniziativa è andata avanti fino all'una, è stato un po' il balletto dello scaricabarile istituzionale. La vicenda, insomma, sui giornali è spiegata abbastanza bene. Avuta la notizia dell'arrivo di questa corteo funebre ad Albano, il sindaco ha fatto un'ordinanza per impedire il passaggio sulle strade cittadine, e dopo una ventina di minuti il prefetto Pecoraro ha telefonato notificando la sospensione di questa ordinanza, e che è stata, insomma, una cosa che ha riacceso nuovamente assolutamente gli animi e ha dato un po' anche il segno della volontà comunque di fare questa operazione. L'esegue a questo criminale lì dentro questo luogo, che è l'unico a quanto pare disposto a fare questa operazione. Insomma, per il paese si respirava un'aria abbastanza indignata e arrabbiata. Le considerazioni più banali sono quelle che, insomma, è da ormai un paio di giorni sotto gli occhi di tutti, che questo qui, il corpo di questo criminale di guerra, non lo vuole nessuno, e non si capisce perché bisogna poi portarlo ad Albano Laziale, alla congregazione più reazionaria che c'è, per garantirgli, insomma, una degna sepoltura. E quindi, insomma, la popolazione, da Lampi ai compagni sparsi ai comitati di quartiere, si sono radunati davanti al cancello e l'hanno presidiato per parecchie ore, e insomma è riuscita, insomma, anche un po' a fa entrare in contraddizione le istituzioni che hanno cercato di portare a termine questa operazione. Al sindaco d'Albano era stato detto che non era stato avvertito per motivi di sicurezza, di discrezionalità, per non far trapelare notizie, ma in realtà tutto il mondo, attraverso i giornali, già alle 2 di pomeriggio sapeva di questa cosa, di questa di questa decisione. E quindi, insomma, il prefetto ha fatto sicuramente una bella figura nella gestione di questa situazione. Da parte di tutti i presenti assolutamente il rifiuto e la non disponibilità a far passare questa cosa, perché, insomma, questo tipo non merita nessun tipo di esegue, non c'ha la dignità di far parte del genere umano, e qui non ci può stare. Poi noi sappiamo bene che nella zona dei Castelli c'è chi lo difende da sempre, l'ha difeso da sempre, da quando è cominciato il processo tantissimi anni fa, e ci ha fatto anche iniziative in passato, e probabilmente sono le stesse persone che hanno combinato la funzione religiosa di ieri pomeriggio. Sì, praticamente si può dire che in questa volta in combutta hanno agito il prefetto Pecoraro e Boccacci, insomma, cioè questa strana accoppiata che all'unisono è riuscita nell'incredibile operazione di portare la salma di Priebke in quel di Albano. Insomma, un duo così magari un po' improvvisato, ma che tutto sommato forse, no? Come dire, fa una bella coppia ben assortita. Eh sì, insomma, bene assortito, insomma, Boccacci da sempre è il suo cavallo di battaglia, la difesa a oltranza della figura di, del boia nazista Prick, e lo ha fatto a metà anni 90 con delle iniziative quando Prick stesso era agli arresti domiciliari a Frascati. E anche lì, insomma, ci sono stati incidenti, motivi di tensione con la popolazione proprio per la presenza scomoda ancora in vita di questo personaggio. Sì, ricordiamo anche che nel primo processo, insomma, se ne uscì anche con un'assoluzione, per cui anche sì, quello ovviamente destò molto clamore. Ecco. E quindi, insomma, sono congetture, ma è plausibile che proprio quest'area politica abbia combinato questa funzione religiosa ad Albano, in virtù del fatto che è da sempre un cavallo di battaglia di questi personaggi, la difesa di questo, ormai la difesa postuma di questo criminale di guerra. Valutazioni sicuramente buone, perché insomma la popolazione ha reagito a un assoluto sopruso, bisognava subire uno smacco alla memoria della resistenza, dell'antifascismo, dei morti che ci sono stati nella zona dei castelli romani, alcuni anche alle fosse ardeatine. E quindi una risposta almeno adeguata al tipo di situazione che si era venuta a determinare. Ieri sera ci saranno state almeno una ventina di camionette della Celere sparse, più le 30-40 volanti di rito, quindi insomma c'era anche un presidio delle forze dell'ordine di tutto rispetto. E quindi, insomma, c'era sicuramente tutta la voglia di non far passare questa operazione sotto silenzio, proprio alla luce poi proprio dei trascorsi che ci sono rispetto a Eric Prick e i castelli romani, dai domiciliari fino a quest'ultima squallida operazione. E quindi bene che insomma si è rimasti in tanti fino a tardi lì davanti ai cancelli per dire che insomma questi personaggi non li vogliamo ai castelli romani, e insomma trovassero un posto dove seppellirli, cioè non è possibile insomma infangare la memoria e l'onore della resistenza e di quei territori per insomma soltanto per le esigenze di un gruppo che lascia veramente il tempo che trova e che da sempre si spende per difendere questo criminale di guerra, e insomma mancavano solo le esequie. E beh, considerando che i 335 delle fosse ardiatine insomma sono stati fatti crepare non solo con un colpo alla nuca ma anche, no, con l'esplosione sotto la cava, proprio perché non restasse nulla di loro, insomma, forse non so quale buco della terra potrebbe accogliere con soddisfazione i resti dell'assassino Prick. Comunque questi sono fatti e risposte che a noi non competono, vedessero loro insomma di sbrigare in modo così burocratico anche questa vicenda. L'importante è che non siano calpestati la memoria delle persone, la memoria soprattutto insomma dei paesi che appunto hanno avuto peraltro un ruolo centrale nella importante pagina del 43-45. Senti, ieri ci sono stati anche dei fermati nel pomeriggio, sì. Quantomeno questa è la notizia che insomma è trapelata e che anche gli altri compagni, di cui anche gli altri compagni ci hanno informato. Sono stati poi confermati questi fermi o sono stati subito rilasciati i compagni? Allora, i fermi erano tre il pomeriggio e sono e della controparte in realtà, proprio a seguito del tentativo di aggressione al presidio serale. Sono stati rilasciati o sono stati tratti in arresto. Invece un ragazzo presente al presidio di contestazione è stato inizialmente fermato e poi è stato rilasciato. Quindi in realtà di fermi per l'iniziativa non ce ne sono, però ci sono una serie di una decina di feriti per insomma il doppio episodio di tentativo d'aggressione e poi la carica a l'una di notte. Va bene, beh, certamente Albano insomma sta vivendo anche per altre vicende un momento in cui delle forme di aggregazione, di partecipazione politica certo non sono affatto estranee al territorio, anzi si riesce ogni volta che ad esempio si è pensato di dover scendere in piazza per protestare rispetto alla questione del ciclo rifiuti, non si è mai andati sotto le 5.000 persone. Anche la giornata di ieri, sebbene su altre questioni, dimostra comunque quanto sia ancora no un territorio dalla forte caratterizzazione politica in senso antifascista, e dunque questa partecipazione va certamente salutata con una certa soddisfazione anche, no? Sì, no, sicuramente con soddisfazione, perché una risposta diciamo tempestiva con tutti i limiti insomma e i problemi legati proprio all'emergenzialità della notizia, c'è stata una risposta tempestiva e abbastanza grossa, forte, che sicuramente lascia tutti soddisfatti e sicuramente guarda, ha contribuito anche l'assoluta esposizione mediatica della vicenda, perché in piazza il presidio era circondato sì dalle forze dell'ordine ma anche dai furgoni di tutte le televisioni, testate giornalistiche principali nazionali e anche estere, e quindi pure questa le informazioni sono circolate massicciamente da un certo punto in poi, e forse anche quello ha contribuito a innescare un meccanismo che invogliava a partecipare verso le 6 alla chiusura dei luoghi di lavoro. Il presidio è notevolmente aumentato di dimensioni, insomma tutti quelli che arrivavano perché l'avevano sentito o per radio o attraverso i siti internet, che da già da tempo mandavano aggiornamenti su quello che stava succedendo in piazza, e quindi pure questo sicuramente ha contribuito a facilitare il lavoro, però insomma c'è un tessuto popolare che comunque ha risposto, e ti devo pure segnalare il fatto che questo comprensorio religioso si trova su una via che è una via abbastanza antica di Albiano, vecchia di Albiano, che è via Trilussa, e gran parte del circondario è zone popolari sia di centro storico sia del codificato negli anni 60, gli anni 70 e gli anni 80, e quindi diciamo che era proprio la gente del posto dei palazzi che circondano tutto il comprensorio, che a un certo punto sono scesi in strada e hanno bloccato l'operazione. Insomma, hanno messo in bastoni dalle ruote a questa operazione. Va bene, va bene. Allora, grazie per il tuo resoconto e ci sentiamo presto. Sì, ok. Un saluto e un arrivederci a tutti e a tutte. Ciao. Ciao.